Siamo in missione per conto di Dio. Mattino di Luca Telese. 450.000 euro a puntata, io forse ci facevo quasi tutta la stagione. Io sono nato in Italia da famiglia italiana con valori italiani, cresciuto nel valore della cittadinanza italiana. Comodissimo Fabio Fazio, di solito la domanda più impegnativa è che ora è. Lo smartphone in classe a me sembra una follia totale. I cancelleri mi sembra, diciamo, un buon Cristo che non so dove l'abbiano riperticato, sinceramente. Forse davanti al Baralba mentre mangiamo una ravanzata. A zappare la terra, non l'elicottero! Il gattone può entrare col suo ruggito! Ruggito. Bene, ho una proposta. Mettiamo il canone di Fazio in bolletta. La brasiera della scritta è una cosa che abbiamo, che è stata fatta in Italia in tanti posti. La brasiera della sola scritta è giusta. È giusta. Se avessi voluto fare il saluto in mano, l'avrei fatto, per dire che non si può. Non diciamo sciocchezze. È stato uno stupro anche del giornalismo, io direi. Quindi noi Bruno Vespa non lo mandiamo più. No, io preferisco la sorella di Belen. I gusti sono gusti. In qualche modo qualcuno ci ha dato uno spunto. Se Oscar è il gatto, io potrei essere il cane. Siamo veramente alla fine del mondo, della statua di Lenin. Non me ne frega niente. La domanda regina è: se non erano ubriache e a loro non sembravano ubriache, perché l'hanno caricata in macchina? Popolo dei già svegli, buongiorno, benvenuti, 24 mattino, un'altra giornata di battaglia, un'altra giornata di sofferenza per le italiane nelle coppe. Sarà ancora questa una metafora del ritardo del nostro paese in Europa? Un'altra grande giornata di dubbio sulla politica. Che cosa faranno i 5 Stelle? Cosa accadrà sullo Ius Soli? Colpo di scena, alcuni ministri ci ripensano e siamo sempre l'Italia sospesa, sempre l'Italia che non si sa dove vada a finire. E allora cominciamo questa grande giornata, ma partiamo come sempre dal fritto misto. Ci sono le zanzare a Roma, ci sono le zanzare che devono essere arrestate. Zanzare killer. Voi avete un termine bellissimo che è nemici della contentezza. C'è sempre qualche nemico della contentezza che deve fare qualche ricorso per provare a fermarci. Io continuo a considerare queste persone solo nemici della contentezza, ma Giancarlo Cancelleri è il nostro candidato alla presidenza della regione. Niente ci può impedire di presentarci alle elezioni regionali. Gigino Di Maio, come direbbe forse De Luca, ha inventato questo termine, i nemici della contentezza, e soprattutto su questa candidatura sospesa in qualche modo a bagnomaria ma tenuta alta dai 5 Stelle si gioca la partita delle siciliane, elezioni siciliane e delle politiche. La legge Fiano, ma era questa la vera emergenza? Non lo è affatto. La apologia contro il fascismo è già regolamentata la legge Scialba e quindi non c'era bisogno di farsi questo spot elettorale, perché è solo quello. La legge Scialba! Tra tutte le gaffe e i rifusi, legge Scialba anziché Scelba è stupendo, perché sembra un gioco di parole che contiene un nodo di satira inconsapevole, ma lo contiene. Ma voi veramente non state bene, fatevi vedere, io ve lo dico fraternamente, un po' di terapia, ma vi volete rilassare? Mannaggia. È tornato De Luca, fatevi vedere. Ai giornalisti, ovviamente, i nemici più feroci, salvo la satira di Crozza che lo ha consegnato la storia, ma lo ha trasformato un po' in un personaggetto. Beh, al Striscia che mi ha fatto patire tutto quello che ho patito, dico soltanto che ha sbagliato e tutti gli esseri umani possono sbagliare. Mi auguro che rivedendo ancora le carte magari si rende conto di aver fatto un grande sbaglio. Ci ha salvato il grande amore e la famiglia solida, diversamente saremmo impazziti. Sandra Mastella, la soluzione, mentre Sting ulula sullo sfondo The Dire Straits, la soluzione l'ha trasformata in una novella Giovanna d'Arco. C'è polemica dopo 9 anni e dopo questa sentenza, vedremo come e perché. Fabrizio è disperato, stanco, stufo, marcio, e ha detto: io faccio lo sciopero della fame, finché non mi si dà quello che io ritengo che mi sia dovuto io non mangio più. C'è una percentuale di moralismo addosso a Corona che a me dà un fastidio fisico, mi fa venire l'orticaria. Perché? Perché Corona è Belzebù, Corona incarna il male. E vedete che è un altro colpo di scena di vittime che diventano martiri, che ridiventano vittime, condannati, eroi. È la storia di Corona. Corona, fermi tutti, in sciopero della fame, come ci raccontano le parole del suo avvocato. Vedremo perché. Play the guitar on MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and you choose. Andrea Purgatori, buongiorno, giornalista, buongiorno, opinionista, Luca, conduttore, ma soprattutto buongiorno, padre di quella Striscia mai troppo ricordata, che fu quel capolavoro della satira contemporanea che fu Fascisti su Marte. Eh? Quale gerarca eri? Quale gerarca eri nella finzione? Io ero Fecchia. Ah, bello. Ero uno dei 5 fascisti che erano andati a trasformare Marte da paese rosso e traditore in un paese fascista. E quell'impresa riuscì, la conquista guzzantiana. Stanno ancora là, guarda. Stanno ancora là. Ecco, ma non avete mai pensato a fare un seguito? Proprio in queste settimane. Ah, vedi, torneranno. Perché sono attuali, sono attuali. Sì, probabilmente, insomma, ormai le cose sono state sbrigate su Marte, quindi forse è il caso di tornare sulla Terra per mettere a posto quello che non funziona. Allora, vorrei cominciare con te dal tema più caldo, perché abbiamo il terrore, come dire, il terrore dei manager della RAI, dei consigli di amministrazione, che è Michele Anzaldi, come sai, un deputato del PD molto attivo nel castigare i mali costumi nell'azienda di Viale Mazzini. Ma la grande domanda è lo stipendio di Fazio. Ne abbiamo parlato ieri con Oscar Giannino, ne parleremo a lungo perché è un tema di costume italiano. 1.200.000 euro l'anno, è uno stipendio giusto, di mercato? Cosa ne pensi? Ma io penso avercelo, direbbe Totò. Sì, avercelo, ma io penso che diciamo il tetto sia una sciocchezza nel momento in cui tu fai una televisione che si mette in competizione con la televisione commerciale. Cioè, o tu decidi che fai una televisione che non si preoccupa dell'ascolto, non si preoccupa, diciamo, di tutte quelle che sono le componenti che hanno a che fare con chi, il pubblico, quanto ti vedono e quant'altro, e allora sei davvero libero di mantenere, diciamo, di calmierare, no? Di calmierare il cachet. Oppure se tu ti metti a fare la competizione alla televisione commerciale, non puoi da una parte dire: io ho un tetto agli stipendi, dall'altra però voglio contemporaneamente, quindi, fare concorrenza. Quindi Purgatori, secondo me, garantista sullo stipendio di Fazio, questo è questa è una cosa, cioè questo è un ragionamento secondo me banale, anche se vogliamo. Dopodiché, sullo stipendio di Fazio, sulla, diciamo, sul costo della sua trasmissione, io ho letto quello che ha scritto Anzaldi e non è campato per aria per niente. Allora sentiamolo, perché lo abbiamo collegato, sì. E sentiamo cosa dice Anzaldi, che ha rifatto i conti e dice ma in realtà è molto, molto sì. di più. Allora 349-238-6666 per i vostri messaggi. Michele Anzaldi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sempre sveglio a quest'ora della mattina? Ho, ahimè, ho due cani. Diciamo, se non mi sveglio io, sono svegli i cani e svegliano me. Ah, ecco, questo è interessante. È una catena di... E lei fa molto watchdog. Allora, ieri Fazio ha fatto i conti nella famosa intervista a Cazzullo su quanto guadagna. Lei ha contestato anche questo calcolo. Dice, sì. È di più. Sì, è di più e non si può sapere perché c'è anche quel pasticcio del contratto su cui Cantone ha chiesto le carte. Infatti, secondo me, bisognerebbe sui conti e su tante altre cose fare trasparenza. Anzi, come si fa per i deputati, come si fa la casta, non capisco perché per certe categorie, che appunto anche loro pagate coi soldi dei cittadini, non si può avere la dichiarazione dei redditi visibile di qualunque deputato. Cioè... Però lei dice il 1.200.000 che Fazio dichiara è solo una parte del suo compenso, giusto? Ho capito bene? Ma sì, lo dico, ma perché lo dicono a spizzichi e bocconi in varie interviste, quelli della RAI, perché come lei sa Fazio è riuscito a ottenere pure un contratto per produrre lui stesso il suo programma. E questo è sbagliato? È sbagliato, secondo me sì, e io ho fatto un esposto all'ANAC di Cantone che anche sui giornali di oggi dice che chiede le carte perché non è chiaro, perché non è normale che io devo fare l'appalto per produrre un programma e allora lo do a Telese, ma Telese non ha la società, esce, fa la società e subito ha un appalto da 10 milioni senza avere una società che è nell'elenco dei fornitori, che non ha una storia, che è appena fatta. Non è normale per nessuno, per nessuna impresa e per nessuno vendere, chiamare un format una trasmissione che va da 14 anni e che se ha un format forse di minori, perché è un'intervista one to one, mi pare una follia pagare 700, credo, se non sbaglio sono 700.000 euro l'anno questo format, che non è vendibile all'estero, tutto quello che vuole lei, che è il format dell'intervista, è il format dell'intervista, no? Poi sostanzialmente sì, sì. Come quella che stiamo facendo noi. Purgatori, sì, beh, insomma, la Gabanelli il suo format lo ha dato gratuitamente alla RAI, quello di Report. E giustamente rivendica di essere forse l'unica, se non una delle pochissime che hanno fatto una cosa del genere. Dopodiché, sull'operazione di Fazio, francamente, insomma, io non ho capito niente, cioè non ho capito quanto guadagna, non ho capito quanto guadagna la sua società, non ho capito il costo reale, non ho capito nel rapporto con la pubblicità che deve coprire o che addirittura farebbe guadagnare la RAI, qual è il rapporto tra il costo, il guadagno e quant'altro. Questo è frutto, cioè, diciamoci la verità, allora la questione Fazio è frutto di una follia che è andata avanti per due anni e mezzo con la precedente gestione, dove un po' alla volta tutti i petali, diciamo, della RAI se ne sono andati per conto loro, per incapacità proprio manageriale di gestire un servizio pubblico dove non si teneva conto anche della ricchezza che c'era all'interno. E alla fine, quando anche Fazio ha detto beh, allora me ne vado, si sono spaventati tutti, ecco, perché ha trattato col coltello in mano, ho capito. Allora salutiamo Anzaldi, ci fermiamo per le strade, torniamo fra poco con Purgatori e le notizie importanti, belle, divertenti, avvincenti del giorno. Gondrand, il trasloco internazionale per la tua azienda è in mani sicure. Gondrand.it vi presenta Mattino. I già svegli. Ciao, Radio 24, io sono sempre attaccato alla Radio 24. Io la mattina mi sveglio verso le 7:30, le 8, faccio colazione, prendo la 48 qua e mi porto al portello, perché io nelle mura di casa non voglio morire, voglio morire in mezzo alla gente. Beh, io mi sveglio presto perché superata una certa età non riesce a fare altrimenti, caro Luca. Luca, un consiglio buono, eh? Un po' più di grinta, alza un pochettino più la voce, un pochettino più grintoso, dai, capriacciughe, andiamo, vai. Meraviglioso il popolo dei già svegli, la signora Antonia, potrebbe essere un manifesto esistenziale, voglio morire in mezzo alla gente, è una nostra ascoltatrice nella segreteria 02465244 92, il grande racconto di quelli che ascoltano la radio di mattina presto. Purgatorio, tu che vita fai la mattina? Ma guarda, io generalmente la mattina non tendo a non alzarmi. Sì, perché io lavoro la notte, cioè preferisco scrivere di notte, quindi la mattina insomma recupero quello che ho, recupero quello che ho perduto, insomma, che ho perso la notte precedente. Sei appassionato di calcio? Sì, sono non appassionato, sono insomma un romanista esistenziale. Sì, molto sfegatato. Di più. Ieri sera, l'altra sera ero allo stadio a vedere la partita contro l'Atletico Madrid. Che c'è una morale incredibile in quello che è accaduto, cioè tutti profetizzavano grandi vittorie del rullo compressore Napoli, del rullo compressore Juventus, e poi alla fine la Rometta è l'unica che ha fatto un punto. Che si è portata a casa un risultato. E devo dire che insomma, nelle condizioni in cui sta, poi no, diciamo, bisogna essere più che contenti. La sorpresa sono gli altri. Lo sai che un ascoltatore ci dice: ma no, Fazio, la cosa più impressionante non è il compenso, ma che è di sinistra. È trattato bene così perché fa parte di quell'intelligenza politicamente corretta, patapim patapam. Ci credi? Boh, non lo so, di questo a me francamente non... Questo tipo di motivazioni mi interessano molto poco. Può essere, può non essere, io non lo so. So che appunto se se ne andava anche Fazio veniva giù tutta la baracca. Questo è il vero punto della polemica che c'è, su cui poi sicuramente è giusto avere trasparenza sui compensi, guadagni e quant'altro. Ma se se ne andava anche Fazio, ma come facevano il palinsesto? Chi rimaneva in Rai a fare le trasmissioni? Su tre canali. Una battuta sul caso Mastella, grande ribaltamento, grande lezione per noi, era innocente ed è stato tirato giù dalla sua poltrona ministeriale, è normale, come dice il procuratore che è stato intervistato oggi al Corriere della Sera, colui che attivò l'inchiesta, è normale che possa esserci una soluzione dopo tanti anni, cosa pensi? Aberrante che non ci sia una soluzione, ma anche una condanna dopo 9 anni. È chiaro che diciamo può piacere o non piacere Mastella, ma io su questo sono un garantista. Cioè, è pazzesco che bisogna aspettare 9 anni, soprattutto per un politico, sapere se sei colpevole oppure no. E nel frattempo diciamo hai avuto 9 anni di insulti e quant'altro. Cioè io credo che sia una responsabilità di questo paese vera, perché poi Mastella ha la possibilità adesso non solo di lamentarsi ma di dire quello che vuole, ma di gente comune che aspetta 9, 10, 12 anni per avere una sentenza ce n'è tantissima e non hanno la possibilità come Mastella di rispondere allo Stato e dire cosa pensano su un torto di questo genere. E allora sentiamolo insieme, Clemente Mastella, oggi ritratti su di lui, rievocazioni, un pezzo lunghissimo di Francesco Merlo su Corriere della Sera, sul Repubblica, sul mastellismo, l'editoriale di Travaglio dice: ma anch'io sono stato processato 200 volte, buongiorno Clemente Mastella. Ah, non c'è ancora, vabbè, vedi, sono colpi di scena. E un'altra cosa, un'altra delle notizie che abbiamo sentito da commentare, cosa pensi della politica sospesa dalla magistratura con il break alla candidatura di Cancelleri in Sicilia, Andrea? Io penso che, insomma, intanto ai 5 Stelle non è la prima volta che capita, cioè è successo già un pasticcio a Genova quando hanno fatto le comunarie perché era stata eletta una candidata che era sgradita a Grillo, che ha annullato le elezioni per poi farne altre. Cioè, mi sembra che ogni volta che si mettono a fare questi sondaggi con il voto in rete per scegliere qualcosa non torna, è vero. Però non è che gli altri partiti brillano per democrazia interna, mi colpisce che solo sui 5 Stelle ci sono gli altolà giudiziari. No, sì, però il problema qual è? Che gli altri partiti non hanno mai brillato per democrazia interna, o quasi mai. E il problema è che i 5 Stelle sono sempre posti come l'alternativa. Adesso vi facciamo vedere noi come siamo trasparenti e come funzionano le cose. Poi in realtà, insomma, mi pare che alla prova dei fatti qualche problemino anche loro ce l'abbiano. Ti ha appassionato la vicenda di Corona? Non è delinquente abituale, lui esulta, ora in sciopero della fame. È un personaggio italiano o è una scoria della cronaca? Come vedi questo ritratto? Non mi appassiona per niente, non mi appassiona per niente. Penso che, insomma, dovrebbe essere già grato al suo pubblico e a chi lo segue il fatto che non è sparito dalle cronache dei giornali, ma certamente che lui si metta a fare lo sciopero della fame perché pensa di avere un trattamento diverso da quello che hanno tutti gli altri detenuti, io lo trovo francamente una cosa che faccia, è legittimo che lo faccia lo sciopero della fame, a me non me ne frega niente. Perfetto, nella Roma in cui infuria la zanzara tigre e diventa una cosa seria, è l'apertura, il titolo di apertura di prima pagina del Messaggero e del Giornale: stop alle trasfusioni, in questa Roma si torna di nuovo a parlare di Ius Soli, due ministri pesanti, Del Rio e Orlando hanno detto no, non va bene che gettiamo le armi e ci arrendiamo, torniamo a combattere su questa legge. Che cosa pensi su questo tema che sta, come dire, turbando la vita del governo? Beh, io penso che, insomma, siamo di fronte a un'ennesima dimostrazione del fatto che ad ogni colpo di vento ci si spaventa e si torna indietro. Io sono d'accordo con Del Rio, io ero a favore e lo sono ancora dello Ius Soli, però voglio dire, in qualunque altro paese europeo, occidentale, comunque democratico, ok, c'è stata questa situazione, concatenata, gli stupri, le violenze e quant'altro che hanno fatto crescere, come leggevo, sì, al 46% sì, la paura degli italiani. Il sondaggio dei Diamanti per Repubblica. Ma questo, che accidenti c'entra col fatto che ci stanno dei ragazzini che sono nati in questo paese, che hanno studiato, che lavorano e che, insomma, hanno il diritto pieno di essere cittadini italiani. Io questo francamente lo trovo, ieri, non lo capisco. Ieri Mario Giordano aveva l'idea opposta, oggi Purgatori è a favore di Ius Soli. Io sono d'accordo con lui, ci fermiamo per GR e Strade in diretta.